4. Va bene, allora possiamo cominciare questa sera questo dibattito con Didier, che è uno studente di giurisprudenza, è un compagno che ha attraversato molte delle lotte sociali degli ultimi anni, Annetta che è una ricercatrice precaria, nonché attivista di Commonware, questo sito che ormai da più di un anno e mezzo cerca di incrociare quello che è un piano discorsivo di riflessione rispetto alle cose che ci succedono, non soltanto quindi provando a fare la cronaca come fanno in modo prezioso anche tanti siti di movimento, ma provando di più a soffermarsi su delle analisi un po' più profonde delle varie cose successe. E questa sera prendiamo spunto per costruire un dibattito proprio da questo ebook che è stato pubblicato su Commonware, Una razza di classe, che è un ebook che contiene molti contributi, in particolare di compagni statunitensi con i quali costruiamo rapporti da anni, diciamo, sia sulle lotte in Italia sia sulle lotte globali, le lotte negli Stati Uniti, che, come dire, da Occupy Wall Street in avanti hanno avuto un peso comunque significativo anche nella costruzione di nuovi immaginari, di nuove forme, anche di attacco verso quelle che sono delle nuove istituzioni che hanno il potere in mano. Ecco, Occupy Wall Street vuol dire immediatamente prendere come controparte non più il governo americano, ma la finanza, la grande finanza globale, che decide molto più rispetto agli stati nazionali rispetto a 40 anni fa. L'Italia qualche giorno fa è stata declassata da una delle agenzie di rating, questo potenzialmente apre molti più problemi, perché vuol dire che i tuoi titoli di Stato non possono quasi più venire comprati da un grosso pezzo della finanza internazionale rispetto a una finanziaria vera e propria di Renzi, che conta tantissimo, perché poi è ovvio che il governo nazionale decide quelle risorse che ci sono, se darle alla TAV o se darle al dissesto idrogeologico, se darle all'Expo o se darle in un piano nazionale di case popolari, se darle nel MOS, nelle grandi opere che servono come grandi tangentifici, oppure se utilizzarli per cose che hanno a che fare con la vita collettiva, come appunto si costruisce. E quindi, diciamo, si parte da quello che sta succedendo in questi giorni negli Stati Uniti, che è una storia di rivolte rispetto a un potere della polizia, ma che potremmo definire la punta di un iceberg di quello che è un sistema in cui la razzializzazione non ha mai cessato di essere, sin dalle lotte per i diritti civili negli anni 50 e 60, dove negli Stati Uniti appunto c'erano gli autobus per i neri e gli autobus per tutti gli altri, e andando avanti con una serie di rivolte che sono passate dalle pantere nere, sono passate dalla costruzione anche di forme importanti di auto-organizzazione delle comunità nere, e sempre comunque in connessione con una generalizzazione del conflitto, perché poi nel titolo dell'ebook, Una razza di classe, è questo un po' anche che si vuole sottolineare, cioè il fatto che la razzializzazione, cioè il fatto che negli Stati Uniti oltre il 70% della popolazione carceraria sia nera, negli Stati Uniti oltre l'80% dei controlli che si fanno per strada in modo arbitrario della polizia sia sulle comunità nere, quindi oltre questi dati di razzializzazione che sono centrali, c'è un sistema in profondità che costruisce povertà, emarginazione, quartieri periferici senza prospettive di vita, dimensioni anche negli Stati Uniti comunque di vite che non hanno prospettive davanti. Per quanto la retorica sia che gli Stati Uniti crescano mentre l'Europa è in recessione, che in parte è anche vero, però negli Stati Uniti questa crescita è data dai lavori di merda, diciamo, dai lavori costruiti, dai lavori pagati pochi dollari l'ora, che hanno visto anche lì una serie di lotte a partire dai McDonald's, dai lavoratori dei fast food, costruire degli scioperi, costruire anche in quel paese comunque una serie di lotte che sono riesplose in questi giorni, laddove gli ultimi omicidi di una serie che continuano in modo continuo di omicidi da parte della polizia di ragazzi neri, nella maggior parte dei casi nemmeno coinvolti in cose gravi o di conflitti già a fuoco, ma appunto la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'uccisione di ragazzi disarmati, come è successo a Trayvon Martin 2 mesi fa da parte di una guardia giurata, come è successo a New York da parte della polizia. Però appunto questo ci porta poi a ragionare di cos'è il modello di fondo, laddove la razzializzazione è solo un processo che serve alla divisione di classe, cioè all'1% della grande finanza, dei banchieri, dei politici, di chi detiene il grosso del potere, e al 99%, come è stato ben definito dai movimenti statunitensi, di chi invece, diciamo, prova a cambiare lo stato di cose presenti partendo dalla propria produttività, dal proprio essere parte centrale di questo mondo, ma dal venirne espropriati. Di fronte a questo, forse la cosa più interessante è provare a capire tra razza e classe, tra lotte delle comunità nere e lotte più in generale che riescano ad aprire degli orizzonti sociali, come sia possibile costruire sempre più delle connessioni che parlino poi anche alle lotte che costruiamo qui, insomma, dove ci possono parlare delle nostre cose.